Questa presentazione di questo libro si inserisce e cade in questo mese che noi è un mese particolare perché ricorda, avvenuta molti anni fa, la morte di Primo Moroni nel 98, nel mese di marzo. Quindi quest'anno abbiamo pensato di dedicare tutte le iniziative che faremo durante il mese per ricordare Primo Moroni. E questo libro qua cade un po' anche nello specifico, perché è un libro di memorie di Tullio, ma però che ci riacutizza anche la memoria nel senso più ampio, nel senso più storico, nel senso di ricordarci tanti fatti che sono avvenuti e sono avvenuti nel corso della vita che Tullio ha vissuto e che molti di noi, dato i ragazzi che vedo qua, si ricordano. E credo, così come noi nel ricordare Primo Moroni abbiamo messo anche una frase per qualificare tutta, possiamo chiamarla così, l'opera che lui aveva svolto, e che la frase è: condividere i saperi senza fondare poteri. E credo che in parte un po' sia anche il modo di come ha vissuto Tullio, no? E ancora adesso, dedicandosi a tutti i problemi dell'America Latina e del Sud America, che segue sempre da una certa parte. Il libro è interessante e chiaramente a noi che facciamo parte di una certa generazione, quando avrete occasione di leggerlo, ci riporterà tante cose che abbiamo vissuto. Voglio dire, parto proprio da quella visita che con il babbo Tullio fa in centro, dove dopo aver visto una banda dei carabinieri e passa in un negozio in galleria che espone dei soldatini, lui se ne innamora e vorrebbe avere questi soldatini. Questo mi ha fatto venire in mente, no, quanto per esempio nella mia casa, avendo il nonno che aveva fatto la prima guerra mondiale e mio padre la seconda guerra mondiale, potete pensare, mezzogiorno e cena, qual era l'argomento? La guerra, no? Permanentemente. Quindi diciamo così che era anche inevitabile l'interessamento a soldatini, armi, eccetera, eccetera, perché si viveva dentro. I racconti erano sempre, chiaramente, allora vediamo di intendersi, non erano racconti degli eroi, non erano, erano racconti di gente che aveva sofferto, che aveva patito e che, tanto per dare l'idea, mio nonno che era del 79, nel senso dell'Ottocento, verrà richiamato alla Prima Guerra Mondiale quando aveva già oltre 35 anni, già due figli, potete pensare com'era contento, no? Tanto per dar l'idea. Vabbè. Quindi questo per ricordare di come questi ricordi e queste memorie possono essere anche comuni, no? Per il clima e per le situazioni in cui si viveva. C'è poi quello scorcio nel libro di quel racconto di quella porta romana, dove, a parte la canzone, ci sono le ragazzine che te la danno, ma voglio dire, comunque siamo dentro quel momento dove era una porta romana, chiaramente, che nessuno avrebbe pensato poter diventare la sede del villaggio olimpico, no? Una porta romana popolare con tutti i suoi pregi e difetti, dove se qualcuno diceva addirittura che per molto tempo non si chiudeva la porta di casa, ma per una ragione semplice: non essendoci niente da rubare, era inutile tenerla chiusa, no? Bene, io non la faccio molto lunga perché credo che sia uno di quei libri dove vale la pena proprio dialogare, no? Con chi l'ha scritto, con chi l'ha prodotto. E ci sono dei passaggi, uno che credo varrà la pena ricordare, perché vedo qui poi in sala qualcuno particolarmente interessato a quella che venne, che è stata ed è la strage di Piazza Fontana, la strage di Stato, e l'anno dopo la morte di Saltarelli, dove Tullio qualche cosa ci può raccontare anche di questo episodio, così come varrà la pena tenere presente quello che poi diventa un po' il cuore del libro, cioè la questione della scoperta che c'è qualcosa in questo esercito che non va. Mi riferisco quando nei vari passaggi del servizio di leva finisce a Verona. Verona, giusto? Sì, sì. E scopre che insomma ci sono degli ufficiali, dei militari che non sono proprio esattamente dediti alla difesa di quella che era la Costituzione, ma hanno in mente di qualcos'altro. E quindi dopo, vabbè, potremmo parlare della Rosa dei Venti, dove giustamente l'editore, sia nel caso della Rosa dei Venti, ossia per andare a ricordare cose che erano importanti, tipo tutto quel fenomeno dei proletari in divisa, cioè di tutti quei soldati che avevano fatto anche manifestazioni, hanno continuato per un periodo piuttosto lungo a far presente che il fatto di essere sotto le armi non significava che avevano dimenticato né da dove provenivano né che questo sotto le armi non doveva servire per difendere, diciamo così, i padroni. Va, quelle parole che dette al giorno d'oggi forse è quasi reato, no? Quello, torno a ripetere, senza farla molto lunga, credo che valga la pena ricordare un'altra cosa, che così come in questo paese non si arriva mai a una conclusione di niente, no? Rispetto a tutta una serie di indagini, processi, eccetera, eccetera, eccetera. Però che Pinelli è stato assassinato, noi non abbiamo ombra di dubbio. Che le bombe le hanno messe sicuramente della manovalanza fascista, ma con dietro dei mandanti ben precisi, cioè qualcuno che non voleva, cioè che voleva fermare, e in parte ci riuscì, fermare tutto quel movimento che aveva visto operai, studenti, larghe masse in tutto il paese, cercare di spostare e migliorare anche le condizioni di vita di chi allora si muoveva nelle piazze. Ecco, io mi fermo però qua, perché mi rendo conto che più vado avanti, più si mette carne al fuoco e finire. Quindi, se poi Renato vuol dire una cosa, poi lasciamo la parola a Tullio, perché intanto che ci dica: no, ma hai detto delle cose che non c'entrano niente con quello che volevo dire io, no. Eccetera. No, io faccio solo, ricordo solo un piccolo fatto, tanto per non per parlare male di Tullio, ma per vedere, perché puoi anche farlo. Sì, ma in questo senso che io Tullio non lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite Marco, nel senso che io gli chiedevo a Marco, perché sapevo che ha fatto, si era interessato di raccogliere delle testimonianze relativamente alla morte di Saltarelli, e allora lui mi ha detto: guarda che abbiamo intervistato una persona che era presente quando erano successi i fatti. Dopo mi ha messo in contatto e dopo lui mi ha fatto presente che c'era queste sue memorie di quando era militare, quindi quando era, diciamo, da ragazzo fino al 72, non so quando era, 73, era solo questo pezzo di storia, perché poi la sua storia è molto più lunga, e anche si potrebbe anche chiedergli anche di scrivere altre cose, ecco. Quando mi ha dato il testo, la storia di Saltarelli non c'era, allora io subito stato tranquillo, poi ho detto adesso aspettiamo, io ho detto ma senti, ma questa questione qui perché non la vuoi inserire? Qui e là, perché forse voleva fare una cosa a parte più ampia o meno, poi ha deciso e l'abbiamo inserita, anche perché, ecco, volevo solo ricordare questo fatto. E poi volevo solo ovviamente consigliare la lettura del testo, perché anche se è un testo breve, eccetera, che si presta alla lettura, ma ci sono dei passaggi che così gettano qualche... ci sono delle notizie, ecco, che finora non si erano sentite, tipo relativamente alla morte di Franceschi, queste confidenze che aveva fatto un collega di tuo padre, che penso che è la prima volta che vengano scritte, e anche altre cose relativamente, ad esempio, a quel probabile, diciamo, a quella gente che era presente, che l'hanno fatto girare per ospedali, o l'hanno, chissà cosa gli hanno combinato, che poi è diventato capo espiatorio di tutto. Ecco, solo questo. Assolto alla fine. Alla fine assolto, sì, adesso, certo. E poi l'altra cosa, come gossip, è che gli ho chiesto di inserire delle schede, perché i personaggi che citava era meglio contestualizzarli, almeno per quelli che non sanno niente. E poi per fare un quadro generale, che alla fine c'è un po' un riassunto della questione della Rosa dei Venti, quando gliel'ho fatto avere, perché non l'ha scritto lui, è firmato da un amico, mi ricordo che mi ha telefonato, era arrabbiatissimo, ha detto ma che cavolo, dopo non sono d'accordo, vabbè, se non sei d'accordo non lo mettiamo, va, taglio qui. Dopo mi ha ritelefonato la settimana dopo, ha detto ma sai, avevo il Covid, ero molto accalorato e l'aveva presa male. Poi dopo invece ha detto beh, è sufficiente che firmi ovviamente, perché non voleva che fosse attribuito lui quel pezzo finale, e poi l'abbiamo pubblicato, ecco, solo questo. Beh, no, allora Renato ha... come vuoi. Renato ha detto delle cose che avrei dovuto dire io, cioè che lui mi ha dato sostanzialmente una mano per rivedere il testo originario, no? Per ampliarlo, e secondo me poi alla distanza ha avuto ragione lui, ivi compreso anche quella storia del tuo amico sulla Rosa, sì, dei Venti, sì. Per me non è che fosse sballata quella cosa lì, era semplicemente un po' troppo lunga. Tanto è vero che ti avevo detto taglia quel pezzo lì e quel pezzo là, così la accorciamo un attimo. Poi alla fine invece... No, ma è interessante, perché è una domanda che si può fare, ma è la storia della Rosa dei Venti, dato che a un certo punto tutte queste indagini fatte dai giudici sono state concentrate a Roma, nel porto delle Nebbie, per come era esposto ho detto ecco, lui sposa a caldo, anche se non è vero, ma... racconta questa cosa, come mai secondo te cioè è vero che è stato avvocato tutto a Roma, ma è anche giusto che dal punto di vista dello Stato, scusa, tutto a Roma mi sembra una chiusura normale, non so, no, secondo me. E allora io dicevo ma forse tu hai delle speranze democratiche che non so da dove ti vengono, cioè era solo quello. Allora ci siamo un po' beccati su questo. No, vabbè, ma allora il portare tutto a Roma è stato un marchingegno prestigitazione. Perché? Perché sostanzialmente hanno messo assieme 5 o 6 procedimenti grossi di levatura nazionale, facendo finta che fossero tutti collegati e inseriti nel golpe borghese. Ed è per questo, tanto è vero, che su, io l'ho voluto mettere, anche se sono cose, se volete, personali, sulla convocazione del sottoscritto come testimone al processo di Roma, che si doveva fare, che ha ricevuto, se non ricordo male, mia sorella Cristina, che vedo lì, se mi ricordo bene, portato da un carabiniere a casa. Il sottoscritto era al secondo o al terzo posto dopo Pansa e altri, no? Allora, perché? Perché se andate a leggere chi sono gli implicati, c'era Remo Orlandino e Orlandini più 77, cioè 78 persone, che erano tutti quelli che erano stati incastrati nell'indagine sul golpe borghese. Poi il prestigio è stato: infiliamoci dentro tutto, così freghiamo il giudice Tamburino di Padova, che sta marciando velocemente per arrivare a delle conclusioni pesanti. E questo è il problema. Il giudizio, per quello dico, fu un golpe politico, perché invece di lasciargli fare le diverse, il golpe borghese, tra l'altro, erano almeno 10 anni che latitava nel porto delle nebbie, senza che nessuno proseguisse, andasse avanti a indagare. Chiaro? Forse abbiamo messo troppa. Però qui, diciamo, queste vicende le conoscono tutte. Non lo so. Però andiamo avanti con ordine, ecco, forse abbiamo fatto un salto in avanti. Vabbè. Sì. Va bene? Sì. Cos'è che hai detto? No. Sei un po' più vicino. Ah, va bene. All'inizio avrei voluto dire poche cose. La prima è: a tutte le donne che sono presenti, auguri per domani. Che valga tutto l'anno. Altre questioni che secondo me hanno giocato molto e comunque spiegano anche come è uscito questo libercolo. Allora, il libercolo ha una sua storia, come tante volte capita a chi scrive, hanno una sua storia contraddittoria. Scrivi un pezzo, poi ti fermi, poi fai un altro pezzo, poi ci ripensi e via, no? Quindi questa roba qua poteva essere pronta già 10-15 anni fa. Poi a un certo punto mi sono posto il problema: ma cosa lo faccio uscire a fare? Sono passati 40 anni, adesso addirittura sono 50, perché il sottoscritto è uscito dall'esercito a fine novembre del 73, quindi sono passati 50 anni e rotti. Allora, il motivo per cui a un certo punto ho detto no, adesso bisogna che perché poi mi rendevo conto, andando a fare qualche incontro, qualche riunione, che moltissimi non sapevano neanche più che cosa fosse stata la Rosa dei Venti, soprattutto delle giovani generazioni, ma non solo, perché ci sono anche degli anziani che non ricordano, che magari in quel periodo non hanno potuto seguire le vicende sui giornali, la televisione, eccetera. Per cui ho detto, ma forse potrebbe anche servire. Ci ho pensato su a lungo, fino a un certo punto ho cominciato a sentire delle strane sensazioni. Sensazioni che io qualche volta nella mia vita ho avuto. Vi faccio un esempio che non c'entra niente per tutto quello di cui stiamo parlando. Una sera, tornando da un pomeriggio, tornando da Milano a Modena, quando ero ancora studente modenese, di solito avveniva il domenica pomeriggio, mi sono messo a discutere in uno scompartimento con due ragazze che erano tutte preoccupate di come stava andando il Gran Premio di Formula 1. A un certo punto una mi dice: ah, ma c'è al secondo posto o al terzo, non ho capito, perché sentivano la radio, non ho capito bene Rindt in che posizione è, Jochen Rindt, non so se qualcuno di voi se lo ricorda. E io istintivamente ho detto subito: ma cosa stai dicendo, è morto? Queste mi hanno detto: ma no, sta correndo. Arrivo a casa, accendo la radio e danno la notizia che Jochen Rindt è morto in un incidente durante il Gran Premio. Ecco, allora, forse riuscite a capire. Io queste cose qua, queste premonizioni, le ho avute alcune volte della mia vita. Allora, adesso non posso parlare di una premonizione. Adesso, e forse qualcuno di voi ce l'ha pure lui, ho una specie di allarme che mi dice: stiamo andando troppo in basso o stiamo andando troppo in zona pericolo. In questi mesi, prima di decidere cosa fare del libro, mi sono letto il libro di Giovanni Tamborino, che sostanzialmente racconta tutta la vicenda della sua indagine e anche dopo, perché lui, poveretto, dopo che gli hanno scippato l'indagine, è andato avanti per i fatti suoi, non aveva più ruolo, è andato avanti a fare indagini e ha scoperto delle cose per me allucinanti. C'è un capitoletto dedicato a un certo principe della massoneria, grande capo della massoneria italiana. Non posso raccontarvi, ve la leggete se volete. Questo fu uno di coloro che ordinarono al bandito Giuliano, a Pisciotta e compagnia bella, la strage di Portella delle Ginestre, quando era abbastanza giovane, era sui 30 anni. Poi è andato avanti, è diventato capo della massoneria di Piazza di Roma, in qualche modo in concorrenza con Gelli, eccetera eccetera. Ha fatto di tutto, ha fatto il consigliere regionale in Sicilia, ha fatto il parlamentare un paio di volte come monarchico, ha fatto tante cose. Tra tante cose, ha messo il becco anche in parecchie trame nere. Di questa cosa qui voi ne avete mai sentito parlare? No, perché nessun giornalista ha mai scritto la storia di questo qua. Allora, secondo me, il povero Giovanni Tamborino, andando avanti, ha scoperto un sacco di cose, per cui quando io lo dico in modo incerto, sì, col dubbio della notizia, ci sono molti che dicono, quando parlano delle stragi nere, dicono che tutto è partito dalla strage di Piazza Fontana. Io, dopo aver letto il libro di Tamborino, ho dei seri dubbi se tutto è partito dalla strage di Piazza Fontana, perché nel 48, quando ci fu la strage di Portella delle Ginestre, gli americani erano ancora qua, la NATO la stavano mettendo insieme, o forse l'avevano già firmati gli accordi. Quindi, e dopo, non è che poi da Portella delle Ginestre a Piazza Fontana non ci sono stati eccidi, non ci sono stati carabinieri ammazzati, non ci sono stati omicidi strani. Ce ne sono. Ecco, questa cosa io credo che bisogna rendere merito di queste cose a Giovanni Tamburino, che poi è sparito, non se ne parla più, poveretto, però voglio dire, ecco, allora mi aggancio al ruolo del piccolo del sottoscritto. Il sottoscritto, lo troverete nel libro, a un certo punto, per uno scherzo notturno di un commilitone che stava venendo a letto alle 2 di notte e si è messo a ridere gridando «Oh, sei tu il barone rosso!» cioè io, che era, dormiva di fianco a me, e ha svegliato tutta la camerata, per cui le bestemmie si sprecavano. Il giorno dopo ci ha spiegato cosa volesse dire. Perché? Perché io dormivo dal freddo cane che c'era con i vetri delle finestre rotti dove entrava nebbia e compagnia bella. Io mi ero comperato sul mercato rionale un cappellino con le parorecchie di pelo. Effettivamente, ripensandoci dopo l'uscita di questo qui, sembravo Snoopy col cappellino quando combatteva il barone rosso. Da allora hanno cominciato alcuni compagni della caserma a chiamarmi barone rosso. Questo fatto mi ha aiutato in qualche modo a raccogliere informazioni di altri militari che scoprivano delle cose non tanto regolari e non tanto di legge, seguendo le leggi e le normative e soprattutto la Costituzione. E così, tra le tante cose, ve lo dico, sono molto contento di avere qui un carissimo amico che non vedevo da anni, che è uno di quelli che ha consegnato a me un documento importante. E io sono riuscito, venendo di corsa a Milano in licenza, a consegnarlo al senatore Ugo Pecchioli del PC, che era qui a Milano per fare un incontro. Questo testo era un testo di storia per gli AUCI, gli allievi ufficiali dell'esercito, stampato nel 52-53, adesso non ricordo esatto, e ancora in uso nel 73, in cui si parlava magnificamente del cavaliere Benito Mussolini, eccetera eccetera, e Benito Mussolini era citato spesso e volentieri. Ovviamente, persona democratica come quel caro amico, come sottoscritto e come tanti altri che cercavano di scoprire le malefatte di alcuni dell'esercito, sono serviti anche, se non altro, per far fare un'interpellanza parlamentare a Ugo Pecchioli, il quale mise assieme quella storia di quel libro con altre vicende che lui aveva scoperto e è andato alla carica. Ovviamente era di minoranza e, come succede spesso e volentieri alle minoranze, è come se alle maggioranze non gliene frega granché di quello che dice il senatore della minoranza. Scorrettissimo il modo di fare, ma è così. Ecco, poi abbiamo scoperto tante altre cose. Tra queste, poi mi fermo, perché vorrei che magari qualcuno dicesse, o anche voi due, altre cose, tra cui un colpo, se volete, di fortuna per noi. Noi cosa voleva dire? Un piccolo, limitato gruppo di 10-15 persone che, piazzati in diversi uffici, diversi ruoli della caserma, ospedale militare di Verona, avevano l'opportunità di visionare documenti, di visionare, di ascoltare discorsi, eccetera. Registravano mentalmente e poi, quando ci si trovava, a un certo punto hanno capito che era comodo dare a me il materiale, perché io avevo contatti con la Federazione PC di Verona, con la Federazione PC di Milano, con la Federazione PC di Modena. Sta di fatto che a quel punto io prendevo il materiale e lo facevo arrivare dove dovevo farlo arrivare. Il colpo di fortuna fu che uno che faceva parte in qualche modo del nostro gruppetto toscano è stato avvicinato una sera che era di guardia alla porta da un tizio che poi risultò chiamarsi Roberto Cavallaro e inquisito, arrestato e compagnia bella per la Rosa dei Venti, e gli disse questo tizio a questo compagno: senti, sappiamo qual è la tua storia, adesso dobbiamo fare combattere il comunismo in Italia, ci devi dare una mano. Questo qua fece lo gnorri, poi si sono trovati altre volte, a un certo punto me l'ha raccontata. Dice: Tullio, ma guarda cazzo, ma chi è questo qua? E io ho detto: guarda, abbiamo già altri sospetti, sta di fatto che viene anche con la divisa da tenente. Alcuni di guardia alla porta gli hanno detto lei dove va, e lui ha tirato fuori il tesserino del tribunale militare. Era un tenente del tribunale militare di Verona che aveva sede dietro l'ospedale militare, per cui non possiamo fare niente perché questo qui è anche pericoloso. Sta di fatto che a un certo punto questo Roberto Cavallaro invita questo compagno ad andare a una riunione dove ci dovevano essere dei personaggi importanti della Rosa dei Venti. E così conobbe, allora era maggiore Spiazzi, che poi divenne tenente colonnello, divenne colonnello e alla fine è andato in pensione da generale. Questo fu il premio perché venne incastrato nell'inchiesta di Tamburino, generale. Ecco. Questa cosa ci è servita molto, ci ha portato a casa parecchie, alcune informazioni. A quel punto, terminato il servizio di leva, il sottoscritto, in accordo col giornalista dell'Unità Michele Sartori del Veneto, che ho citato, ha fatto sapere a Tamburino che se voleva, se gli serviva, ero disposto ad andare a testimoniare e a portargli informazioni sulla Rosa dei Venti. E fu così che cominciò la trafila del vai e torna con Padova, vai e torna con Padova per me ed altri che facevano parte del gruppo insieme a me. Direi che forse basta e avanza quello che ho detto. Questo qui dopo il servizio militare. Questo va e vieni, sì. Il va e vieni, sì, appena terminato il servizio militare. No, vabbè, se qualcuno c'ha qualche domanda la può fare, senza problemi. Viene... Io volevo chiedere una cosa, ma allora, fare delle domande senza aver letto il libro è un po' difficile. Cioè, leggere il libro. Comunque volevo chiedere, perché terza persona? Perché? No, parlo di me, parlo di Tullio. Sì, ma è certa persona. Allora, io non intopro il libro, Vito, però. Allora, cioè, mi ha colpito, ecco. No, no. Allora, è una cosa autobiografica. La prima versione di quel testo lì non parlavo neanche di Tullio. C'era uno che si chiamava Marco ed ero io. Poi, chiacchierando anche con l'editore, A un certo punto lui mi ha fatto un'obiezione, mi ha detto: ma scusa, ma tanto si capisce che sei te, poi alla fine lo devi dire, ma allora perché non parli sempre di te stesso? Sul discorso lì è andata così. C'è un altro problema: voi non troverete mai, mai, compreso l'amico presente, citati i cognomi delle persone. Ma perché? Lo capite benissimo, per questione di vigilanza, perché anche dopo 50 anni non vorrei che qualche puntini andasse a rompere le balle. C'è ad esempio quello di Firenze che mi ha scritto 3 mail in cui, dopo che gli ho detto, l'ho annunciato, guarda che farò un libro sulla nostra storia, e lui mi fa: va bene, ok, sono d'accordo. Quando eravamo sotto, vicino alla stampa, mi ha scritto e ha cominciato a dire: però io, guarda, non c'entro poco. Un'altra volta mi ha detto, perché si è spaventato dopo 50 anni. Allora capite che era giusto. Se voi guardate alla fine, nelle ultimissime pagine, forse l'ultima, io cito un sacco di nomi di battesimo dicendo: dobbiamo, la Repubblica deve ringraziare tutti questi, e c'è l'elenco, c'è Roberto, Gianni, eccetera eccetera, Federico, e via andare. Non ci sono i cognomi, perché li voglio ancora tutelare, mentre ci sono pochi cognomi, pochissimi, e sono persone che hanno dimostrato di essere serie e rispettabili. Per esempio il colonnello Liverani, che comandava nella seconda fase in cui sono stato lì a Verona l'ospedale militare. Colonnello Liverani, il giorno della festa della sanità militare ha radunato tutta la truppa con tutti i graduati nel cortilone, e poi ha detto 3 volte nel suo discorso: io sono fedele alla Repubblica, non pensiate che io mi faccia trascinare da altri miei colleghi che in altre caserme. Cioè ha dimostrato di essere una persona seria e fedele alla Repubblica e alla Costituzione. Il colonnello Liverani, quando mancava poche settimane che io me ne andassi in congedo, illimitato provvisorio. Sì, vabbè. Un giorno ha convocato una riunione nel suo studio dove c'era il mio capo della chirurgia. Io lavoravo in chirurgia, il capo della medicina generale, e poi io ero sceso giù a portare delle carte, delle firme, dovevano essere firmate da lui. Sono entrato, ho visto questi qua, ho fatto firmare e stavo andando via, e lui mi fa: scusa, mi chiudi per favore le 2 porte del suo ufficio? E io dico: sì, va bene, devo uscire, perché ho capito che doveva dire qualcosa di riservato. Fa: no, di te mi fido, stai qua. E io sono rimasto lì. Sono rimasto, e così ho scoperto che c'era il figlio di uno siciliano che aveva fatto per anni i trasporti segreti di armi per il SIDA, il SIFAR e compagnia bella, che chiedeva che suo figlio venisse mandato definitivamente a casa dopo aver provato 2 volte con i ricoveri negli ospedali militari. Lui disse, davanti a me e a quei 2 comandanti, io non gli darò mai il congedo definitivo, considerato che quando io ero comandante dell'ospedale militare di Udine avevo scoperto che mi avevano messo, quelli del SID, i microfoni nel mio ufficio. Sì. Vieni. No, si Il libro non l'ho letto, quindi non posso sapere, magari già dentro nel libro, però dico il gruppo che avevate costituito e il lavoro che è stato fatto, se che tipo di rapporto, di relazione aveva col Partito Comunista, nel senso, siccome tu hai detto l'articolo pubblicato sull'Unità, siccome il Partito Comunista di Modena, il Partito Comunista di Verona, il Partito... Cioè, se voi lavoravate, diciamo, in qualche maniera come in funzione di una cosa più organizzata, oppure no? E se mi sembra di capire no, e nel caso del no, che tipo di atteggiamento aveva il Partito Comunista rispetto a quello che stavate facendo, che credo conoscesse, perché altrimenti l'articolo sull'Unità non sarebbe uscito, eccetera, eccetera. Cioè, qual è stata la reazione, se c'è stata? Ok, bella domanda. Vado subito perché diventa un po' lunghetta la cosa. Allora, il gruppetto di cui parlavo era un gruppetto misto, di sinistra ma misto. Allora, c'era uno di Siena che era di Servire il Popolo, ce n'erano due che erano del Manifesto, ce n'erano alcuni che erano collegati a Lotta Continua, ce n'erano alcuni che non eravamo neanche la maggioranza, collegati al PC. Devo dire che i più attivi, ma lo diciamo anche nel libro, erano quelli di Lotta Continua, che avevano messo in piedi i PID. Fortunatamente, dopo che i primi tempi c'era una specie di assurda concorrenza tra un'organizzazione e quell'altra, e quindi non ci si passavano. No, non era competitività, era proprio concorrenza, sì, vabbè. Era una concorrenza, non ci si passavano le informazioni. Dopo poco tempo, un giorno venne il responsabile di Lotta Continua, che purtroppo non sono più riuscito a trovare dopo il militare, che mi disse: senti Tullio, lo sappiamo che sei del PC, ma perché non vieni? Allora ti devo dire anche sulla storia della mia appartenenza al PC. Io al PC ero appena entrato quando sono andato militare, poi quando ho finito sono diventato anche segretario di una sezione a Porta Romana, vabbè. Poi dopo un po' di anni, quando ci fu la rottura di Mussi e compagnia bella, io sono uscito con Mussi e non sono entrato nel PD e non sono più rientrato da nessuna parte. Ritorno, come? Rosa dei Venti, siamo tra fine 72, c'è l'inchiesta in Liguria, perché ci fu una premessa ligure. Il famoso industriale Piaggio era ligure, altri erano liguri, anche l'avvocato di Recco erano liguri. Poi a un certo punto, quando hanno scoperto che c'era di mezzo forse qualcuno dell'esercito veronese, hanno girato, secondo me per fare i furbetti e per non andare avanti a procedere loro, hanno girato tutti i faldoni a Padova, dove il capo della procura ha chiamato Tamborino Giovane e gli ho detto: senti, ti devo dare questa smazzata qua di faldoni, e lui ha continuato l'indagine. Eravamo già nel 73. I primi arresti di Tamborino sono a fine 73 e addirittura fine 74. Ecco, allora ti stavo dicendo, no? Scusa, ma era giusto rispondergli, no? Quel giorno, quello di Lotta Continua, mi ha chiesto: senti, noi facciamo una riunione sabato pomeriggio in centro a Verona, se mi dici di sì ti dico l'indirizzo, dove cerchiamo di mettere assieme e coordinare le organizzazioni nostre e se le avete vostre per poter piantarla di farci concorrenza tra di noi, no? Allora, io avevo un riferimento di partito alla Federazione di Verona, avrei dovuto, lo dico, avrei dovuto telefonare a questo qua appena potevo, dirgli guarda che mi invitano quelli di Lotta Continua a fare un incontro, tu sei d'accordo se ci vado come PC o no? Non ho fatto la telefonata, ho deciso io e ci sono andato. Quando lo seppe, dopo settimane, si è anche incazzato. Ma vabbè, tanto per dirti, no? Facciamo l'incontro e decidiamo che... Ed è lì la prima volta, durante quell'incontro, che ho sentito nominare Spiazzi. Perché? Perché c'erano presenti alcuni del PID di Montorio Veronese, dove c'era la caserma di Spiazzi, dove lui comandava un drappello di artiglieria specializzato ed era l'unico di tutta la zona di Verona ad avere il codice segreto per accedere nelle informazioni NATO e nei collegamenti NATO. E su quello Tamburino ha battagliato moltissimo fino a che non è riuscito a farsi dire qual era il codice e chi lo gestiva. Ed è lì che ha potuto incastrare Spiazzi, perché era l'unico che aveva quel codice NATO. Ma se non avesse avuto un aiuto anche dall'interno dell'esercito, non sarebbe riuscito a incastrare Spiazzi. Quindi, tornando alla tua domanda, abbiamo cominciato così a collaborare, con quell'incontro. Non sempre tutto era rose e fiori, qualche volta c'era il mugugno, ma tu quella roba lì non me l'hai detto. Pensavo che fosse poco rilevante. Poi ci sono state delle cose molto interessanti dove abbiamo fatto una grande collaborazione. Per quanto riguardava l'atteggiamento del PC, allora devo dire che il PC non è che fosse favolosamente d'accordo con l'attività del sottoscritto e di altri compagni iscritti al PC di Modena, Toscani, di Ferrara e compagnia bella. Anche se poi, quando gli chiedevamo aiuto, ce lo davano. L'aiuto cos'era? Io, per fidarmi di qualcuno che mi diceva sono un compagno, telefonavo appena possibile alla federazione tal dei tali e gli dicevo senti, sono Tullio Quaglianni, vorrei sapere velocemente nel giro di 2, 3, 4 giorni chi è questo qua, e quella collaborazione ce la davano, ce l'ha data a Milano, ce l'ha data a Modena, ce l'ha data a Verona. Però oltre quello stavano molto schisci, stavano molto attenti, non volevano incasinarsi in qualche storia che poi magari poteva finire in tribunale militare, perché la loro paura forse era quello. Poi va a finire che qualcuno dei nostri finisce in galera, tribunale militare, Gaeta o Lago di Garda o Peschiera del Garda. Forse è meglio che stiamo attenti. Difatti, tutte le volte che io parlavo con qualcuno venendo a casa a Milano, mi dicevano, mi raccomando, stai tranquillo, quelli della federazione che lo sapevano cosa combinavo. Devo dire che anche dopo, quando ho terminato, e lo dico nel libro, avevo fatto una specie di curriculum, di resoconto delle cose strane e pericolose che avevamo scoperto. Questa cosa mio padre, che comparirà varie volte, si chiama Francesco, che aveva fatto il partigiano, eccetera. Mi dava suggerimenti, no? Stai attento. E a un certo punto, quando avevo cominciato a scrivere tutto il resoconto, mi ha detto: io non sono mai stato comunista e lo sapevo benissimo, però tieni presente che tu queste informazioni le devi far circolare. Quindi mi ha suggerito di andare dal mio partito e raccontargli le cose che avevo scoperto. Quando sono andato dal mio partito, gli ho portato le pagine, diciamo il libercolo con tutte le storie, e guardate che lì ci sono nomi e cognomi di tutti, anche di fascisti, anche di gente che forse era delle Brigate Rosse. Mi hanno guardato con indifferenza. Tra l'altro avevo a che fare con la commissione di controllo della federazione, che era quella che si occupava delle vicende un po' strane, un po' coperte, eccetera, eccetera. E ho avuto a che fare con uno, due, tre, che erano tutti e tre ex partigiani, che io ho sempre rispettato. Però in quell'occasione ho cominciato a avere dei dubbi, non sul fatto che non fossero stati partigiani, ma sul fatto che non fossero più tanto lucidi rispetto agli eventi moderni. Questo è il dubbio che mi venne e ce l'ho forse ancora. Mi hanno praticamente fatto capire: ma sì, Tullio, cazzo, hai perso un sacco di tempo, però alla fine della fiera a cosa serve tutta sta roba qua? Guarda che il golpe non ci sarà più. Allora, è questo il dubbio che c'ho ancora. Allora il PC, o almeno una parte di PC, forse quella della Federazione di Milano, che era la più destra d'Italia, non pensava che degli episodi di esercito che si muoveva. L'Espresso aveva fatto, mi ricordo, una copertina in cui diceva: si odono le sciabole che si... Tintinnio di sciabole. Tintinnio di, ecco, sciabole. Bravo, il tintinnio di sciabole, me lo ricordo quel titolo lì. Aveva fatto mezzo Espresso su quello. Perché? Perché era chiaro che nell'esercito, in diverse postazioni, c'era gente che stava pensando male. Quelli del PC, alcuni non pensavano così male. Ecco, questa è la cosa che mi è rimasta un po' sullo stomaco del vecchio PC. Quindi quando oggi come oggi trovo tanta gente di gruppi a sinistra del PD che dicono: ah, ai tempi di Berlinguer, che vedono il tempo berlingueriano con nostalgia, io dico: io lo posso vedere con nostalgia perché allora c'ero dentro e sono d'accordo. Ma voi, che già ai tempi di Berlinguer eravate contro Berlinguer, come fate a vederlo con nostalgia? Volevo dire una cosa che è scritta nel libro, ma tu però, da, diciamo, prima di entrare nel PC, avevi un'altra storia, no? Cioè, no, è scritto, cioè, per, sì, rispondere. No, vabbè, ma lui crede, io avevo capito che la sua richiesta fosse sul PC. Allora, no, l'altra storia, tre parole. Allora, perché mi ha fatto ridere, perché lui, prima di fare la scelta del PC, a chi ha chiesto consulenza? Vai. Questa cosa mi ha divertito tantissimo. No, a consulenza? Dico io, cattivo. A mio padre? A chi hai chiesto? Un consiglio. Un consiglio, sì. È scritto nel libro, eh? No, mi sembra di non avere scritto una cosa del genere. No, allora, sono nato cattolico, sono stato nelle organizzazioni cattoliche parecchio tempo, fino a dopo i 25-26 anni, giù di lì. Sono stato anche addestratore dei giovani dei ragazzini delle parrocchie che si chiamavano Fiamme, Fiamme Verdi, Fiamme Rose. Ho combinato un po' di casino. Poi a un certo punto mi sono, da studente universitario, entusiasmato al movimento studentesco. Ed è lì che c'è stata la svolta, se volete, perché sono passato decisamente a sinistra. Nel frattempo, però, anche da cattolico, mi sono sempre considerato un po' un cattolico del dissenso, perché i miei autori preferiti, oppure i miei miti, erano Norman Bethune, medico in Cina, Schwarz, medico, e poi c'erano scrittori come Maritain, francese, stravedevo per le due encicliche di Giovanni XXIII e di Paolo VI, la Populorum Progressio, che secondo me rimane ancora la migliore enciclica di impegno sociale della Chiesa. Paolo VI ce l'ho avuto quando ero presidente di Giovani d'Azione Cattolica, ho avuto occasione di parlarci assieme più di una volta, quando era qua come Montini, no? Poi passato nell'MS, sono rimasto nell'MS anche addirittura quando sono arrivato a Modena, facevo nel mio piccolino il rappresentante dell'MS linea Capanna eccetera, a Modena. Andavo anche nel mercato a vendere il giornale dell'MS. Ecco, tu volevi dire questo? No, no. Allora non mi ricordo, dimmi. No, hai scritto che a un certo punto hai deciso di entrare nel PC e hai informato Capanna, così hai scritto. Sì, vabbè, ma sì, perché allora c'è stato un periodo in cui tra l'altro ho conosciuto alcuni, compreso quell'amico presente, che ero, viaggiavo politicamente a cavallo tra l'MS e il PC, però non ero ancora iscritto al PC. A Modena mi consideravano PC, ma io non ero iscritto. Tanto è vero che il segretario della sezione universitaria modenese, che si chiamava Renato Cocchi, quando io gli avevo detto guarda che quasi quasi vengo con voi, mi ha detto ma no, ma cosa cazzo ce ne facciamo di te? No. Quindi poi quando sono la prima occasione che sono tornato a Milano mi è capitato tra le mani, tra i piedi Capanna, e chiacchierando gli ho detto guarda che fa quello che vuoi. Quindi è così un po' la storia. Adesso non mi ricordavo questo aspetto qua. Io volevo dire tre cose. La prima è che bene hai fatto a non farti vincere dal senso di inutilità di raccontare queste storie oggi. Lo dico non genericamente, ma proprio perché stanno uscendo dei lavori sulle esperienze dei giovani di leva in quegli anni. È uscito qualche mese fa un libro sull'esperienza di proletario in divisa per Deriva Prodi e se ne sta curando un altro con uno dei responsabili dei proletari in divisa al nord, che tra l'altro è il papà di una compagna che frequenta questo posto, per cui questa tua esperienza fa parte di quelle situazioni che permisero quantomeno di portare fuori una serie di informazioni importanti, perché non era ancora iniziata la fase di massa della politicizzazione dei, dei giovani sotto le armi, che vedrà suo sviluppo qualche tempo dopo, no? Dal 75 al 76, ma era già attiva una rete di controinformazione nelle caserme, operata da compagni che facevano il militare, che avrebbe permesso di appurare tutta la questione delle bombe di Trento del 70, dei depositi delle armi in Toscana e varie altre situazioni molto, molto delicate. Tra l'altro Verona è a mezz'ora da Rovereto, Amos Spiazzi, oltre ad agire nelle caserme di Verona, aveva la sua sede logistica nel Museo della Guerra di Rovereto. Sì. Che era proprio un centro di organizzazione di tutti quei quadri militari e nazionalisti che poi ritroveremo in una serie di indagini importanti. E quindi è un libro che continua il tuo lavoro e continua a essere oggetto di attenzione, sia per i motivi che hai detto all'inizio, ma proprio perché storie che in tanti hanno vissuto adesso tornano a circolare. Quindi, ripeto, bene hai fatto a non farti vincere da quel senso di inutilità. Ecco, la particolarità di questa tua narrazione è che mette in luce quei rapporti di movimento, come dicevi, uno di servire il popolo, due di lotta continua, due vicini al PC, dentro fuori, che sarebbe durata ancora per qualche tempo, non per molto, perché in certe cose che dici mi viene in mente quanto raccontava Primo Moroni a proposito della sua appartenenza in gioventù nella FGC e nel PC, quando gli dicevano che il partito era tutto informazione, no? Era tutto sapere le cose dello Stato e predisporsi all'uso politico delle forze armate dentro il quadro atlantista e dentro la tradizione di destra, di estrema destra in Italia. Ecco, poco tempo dopo, sostanzialmente nel 74, ci sarebbe stata la famosa presa di posizione di Andreotti, che scarica Miceli e di fatto apre alla politica di compromesso storico che si sarebbe realizzata di lì a poco. E se è una cosa da ragionarci, da discutere, però come? No. Andreotti è stato con poi facendola sudare al PC, centellinando la compartecipazione, però Andreotti e Moro sono stati i due comunque è stata una decisione, ecco, ma è un anno cruciale proprio perché viene scaricata la componente e si apre alla collaborazione di governo, che significa che poi sostanzialmente anche una figura come Pecchioli tutte le informazioni, la sua internità agli apparati la volge in un altro senso. Quelle, le situazioni che racconti tu, estremamente significative, sarebbero state probabilmente impossibili anche solo due anni dopo, no? questa far sponda con Paese Sera dedica molta attenzione ai fatti portoghesi, i giornalisti di Paese Sera e dell'Europeo vanno a Lisbona, scavano negli archivi dei servizi segreti portoghesi e le notizie che trovano vengono pubblicate. Tutto questo poi verrà sostanzialmente messo da parte a favore della politica di unità nazionale e del coinvolgimento diretto del Partito Comunista e dei sindacati nella gestione dell'ordine pubblico. Quindi questa è una cosa che ti pongo come riflessione. L'esperienza che fate voi quel gruppetto è proprio di quel periodo ed è significativa proprio per la sua puntualità. L'altra cosa che volevo chiederti invece, sulla base dei tuoi studi e della tua professione successiva, se da studente o successivamente hai incrociato e come un altro pezzo grosso dell'esperienza giovanile di quegli anni, e cioè tutta la problematizzazione rispetto all'uso sociale della medicina, per intendersi tutto il lavoro di Maccacaro, medicina democratica, la salute sociale, eccetera. Se non c'è nel libro, ma visto che sei presente, volevo chiederti quest'altro pezzo successivo della tua vicenda. Grazie. No, questa parte qua ovviamente non c'è, perché il mio obiettivo era parlare. Mi sono dimenticato, scusami, tra quelli che partecipavano al gruppetto c'erano anche un paio di avanguardie operaie. Mi scuso se per caso ci fosse qualcuno che aveva il riferimento con AO. Io volevo risottolineare alcune considerazioni che ho fatto all'inizio, e cioè non mi piace l'andazzo che c'è oggi come oggi in Italia. E non solo perché mi sono antipatiche o antipatici alcuni ministri, sottosegretari e compagnia bella. Non solo. Allora, ci sono dei piccoli iceberg che sono emersi negli ultimi tempi che assolutamente ci devono fare riflettere molto. Allora, c'è un certo già generale che ormai è diventato strafamoso per le stupidaggini che continua a dire e a scrivere, e che addirittura qualche pazzoide vorrebbe candidare alle europee. Poi, e questo è già un bel mattone da digerire, poi ci sono dei soldati, dei militari di professione, come qualche carabiniere, Piazzale Loreto, la vecchia compagna di 92 anni che gli dice: ma cosa stai dicendo? Tu a che repubblica appartieni? E quello gli dice: io non riconosco questo presidente. Allora, un carabiniere una roba del genere non la può dire, non la può, per regolamento neanche. Lasciamo perdere la Costituzione che sta sopra tutto. Le stesse manganellate, recenti o passate, non ci stanno con un quadro di Repubblica Democratica. Non ci stanno. E come mai? Evidentemente, oltre questi, se volete, piccoli iceberg, c'è di peggio. Allora, c'è qualcuno che in questo periodo sta occupandosi di in qualche modo verificare cosa diavolo combinano all'interno dell'esercito, all'interno delle forze armate, all'interno dell'aviazione, della marina? Io temo che siano ben in pochi quelli che sono preoccupati e si stanno occupando di queste questioni. E temo soprattutto perché non ci sono più quei giovani volonterosi che hanno voluto anche rischiare per portare a casa informazioni che servissero a tutta la Repubblica, non solo a se stesso. In quei tempi, anche se io sono molto ancora, ve l'ho detto due volte, titubante sull'atteggiamento di alcuni compagni partigiani quando gli raccontavo le cose, però almeno c'avevi qualcheduno un po' più su di livello, come un Pecchioli, per esempio, che non era un fiorfiore di sinistra del PC, no? Che ti stanno a sentire, verificano e poi viaggiano. Adesso chi è che potrebbe giocare questo ruolo? Chi è che potrebbe darti l'informazione dall'interno dell'esercito? Chi? Quanti ne abbiamo di compagni che sono dentro a fare i professionisti dell'esercito? Compagni o anche anarchici, eh? Perché non l'ho detto, ma tra di noi c'erano anche due anarchici. Seri. E purtroppo uno lo trovate in fotografia, è di fianco a me, questo qua, il Nando, che purtroppo dopo il militare ebbe un incidente in bicicletta, è rimasto in carrozzella per anni e poi è morto. Ecco, io sono preoccupato di questa situazione. Non è sufficiente che ci sia una bella o dignitosa trasmissione di informazione e di controinformazione come report e cose similari. Per me non è sufficiente. Per me bisognerebbe trovare il sistema, intanto che si convincano le forze politiche, a questo punto non parlo più neanche di partiti, le forze politiche che credono ancora nella salvaguardia della Costituzione, che si diano una mossa, perché altrimenti, signori, ed è per questo alla fine della fiera che ho voluto fare questa robetta qua, perché per me la memoria non sono solamente il 25 aprile e dintorni. Ci sono alcuni gruppi come i miei compagni ex statalini che ogni tanto, quando ci sono gli anniversari, ricordano, fanno memoria, fanno la memoria di Franceschi, fanno la memoria di Zibecchi, eccetera, eccetera. Però non basta, ragazzi, cioè ce la caviamo facendo una passeggiatina con lo striscione dal punto dove è stato ammazzato a Piazza Santo Stefano. Ragazzi, non voglio essere, io partecipo, ci credo ancora, però voglio dire, memoria vuol dire ricordare le questioni gravi, grosse per l'equilibrio e per la vita della Repubblica, per cui non possiamo dimenticare che hanno tentato diverse volte dei golpe, alcuni li abbiamo chiamati barzelletta. Sì, può anche essere che una fosse una barzelletta, può anche essere che la seconda fosse una roba finita uscita male, però quella volta in cui andarono addirittura nel Ministero degli Interni le guardie forestali abruzzesi e laziali, ed erano già entrati quando gli hanno detto tornate indietro, allora quella volta lì era una barzelletta? La Rosa dei Venti era una barzelletta? La Rosa dei Venti l'abbiamo sempre interpretata così noi che ci siamo occupati un po' della cosa, e lo dice anche Tamborino, probabilmente era quello il momento centrale che unificava tutti gli altri gruppi terroristici che operavano in Italia. Guarda caso, era lo stesso simbolo della NATO. Chiudo. Io non sono mai stato convinto che dovessero eliminare il servizio di leva obbligatorio in Italia. E oggi come oggi spero che qualcuno un giorno o l'altro rimetta in discussione la questione. Ovviamente sto pensando a un qualcosa di ben diverso da quel tipo di leva, da qualcosa dove ci sono donne e uomini insieme, dove i tempi non siano 14 o 12 mesi, dove si insegni magari per un solo mese come si spara e poi si facciano tante altre cose nei mesi rimanenti, tipo l'ambiente, i musei, l'aiuto agli handicappati e cose e via andare. È un servizio civile. Sì, un servizio civile, però obbligatorio in modo tale, per esempio, io e altri presenti qua, quando hanno fatto il militare, hanno perso rispetto nella concorrenza verso il posto di lavoro, hanno perso dei punti perché sono andati un anno dopo rispetto agli altri che invece non sono andati militari, magari facendo gabole, raccomandazioni e varie. Adesso l'esercito sono pagati, chi sceglie la carriera militare sono pagati, quindi è un po' difficile che possa succedere quello che dici, secondo me. Lo so, ma... Cioè, che c'è? In questo periodo qua il governo, siamo stati... Sì. Tiziana, se parliamo di servizio civile, come giustamente mi hai richiamato, possiamo anche trovare un po' di alleanze per spingere questa cosa qua. Altrimenti saremo sempre in mano a non si sa chi. Comunque è molto interessante. Hai fatto bene a scrivere. Puoi parlare per cortesia al microfono perché c'è uno streaming che chiede a casa. In altri spazi non riesce a comprendere la domanda. Cos'è che dice? No, ho detto che ha fatto bene a scrivere il libro. Mi sarei... No, vabbè, chi voleva che parlasse domanda. Il microfono. Prego. Può venire qui. Puoi venire qui. Sto fumando. L'opportunità che avete avuto voi di poter accedere a dei documenti che poi vi sono serviti per delle riflessioni politico-sociali, come quella che tu stai compiendo, tutto sommato, è perché c'era il militare era obbligatorio, la leva era obbligatoria. Quindi nella leva obbligatoria, rispetto a quella che si fa oggi per motivi non economici, c'è una resistenza in colui che viene obbligato a fare. E quindi la resistenza, sia psicologica, chiamatela come volete, questa resistenza potrebbe poi mostrarsi in atti di sabotaggio. Chiamiamoli atti di sabotaggio. Se tu devi avere documenti che non ti sono accessibili, tu stai facendo un sabotaggio. Dammoli il nome che ha, perché non è che tu spacchi una cosa per poter accedere al documento, ma accedi a delle informazioni rompendo dei limiti. Solo questo volevo dire, che aveva questo adesso... Il fatto, la cosa è interessantissima, ancora di più se vogliamo, il fatto che i militari vadano a fare il militare per questioni economiche, non è detto che si portino dietro le questioni economiche che facevano sì che quelli che lo dovevano fare poi gli dessero la motivazione per fare quello che hanno fatto. Cioè tu nel momento in cui fai della tua vita un mestiere, oppure dedichi, non so come chiamare, un pezzo della tua vita a un mestiere di un certo tipo, fra l'altro che è la guerra, non credo che vai a mettere le mani in cose che potrebbero poi mettere in discussione questa scelta di fondo che tu hai fatto, cioè è una scelta guerresca in fondo. Non sto parlando tu, non intendo te, intendo colunque. Certo. Forse sabotaggio è una parola un po' forte, forse va meglio spionaggio, perché sabotaggio, tra l'altro non volevamo sabotare, volevamo fare uscire informazioni in modo da garantire il prosieguo della Repubblica. E il sabotaggio per me vuol dire... fare il bombarolo, per esempio, oppure fargli saltare un camion di una caserma. Per esempio, una cosa che non ho messo nel libro, ma sono tante quelle che non ho messo nel libro, alcune perché le ritenevo irrilevanti, altre perché pensavo che dovessero essere maggiormente documentate. ce n'è una divertente. A Montorio Veronese, artiglieria, dove ho già detto operava il caro Spiazzi, ci fu a un certo punto, finì solo sui giornali locali, una notiziola che diceva che c'era stato un furto di pistole nella caserma di Montorio Veronese. Nel giro di 3-4 giorni hanno trovato subito chi era stato. Avevano rubato 5 pistole. La cosa di per sé, erano dei poveri disgraziati che volevano, avevano fregato le pistole per venderle. No. Peccato che subito dopo è partita una grossa indagine documentata dai compagni che c'erano a Montorio, che è durata settimane, interna all'esercito, in cui hanno scoperto che era sparito un camion, 2 jeep, diverse mitragliatrici, molti fucili e qualche bomba a mano. Allora, signore, ma vi rendete conto che nella caserma dell'artiglieria più importante del Basso Veneto spariscono ste cose e non se ne rende conto nessuno e vanno di corsa a verificare quali sono stati i danni dopo che quei 4 scemi hanno rubato 5 pistole? È evidente che temevano che arrivassero altri tipi di controlli, che magari ci fossero interpellanze parlamentari e cose del genere. Quindi vedete che queste cose qua voi a Milano, quando io ero a Verona, non le avete mai sapute, perché le ha scritte solamente 2 giornaletti locali. Medicina sociale. La medicina sociale. La medicina sociale. Allora, guarda che il sottoscritto, prima ancora di riuscire a laurearsi, un bel po' prima, aveva già deciso che avrebbe fatto medicina del lavoro. Poi cominciai a seguire quella materia a Modena e poi la finì qua a Milano col compagno Antonio Grieco e altri della Clinica del Lavoro di Milano. Quindi io poi ho fatto 35 anni di medico del lavoro e non come privato, come medico di fabbrica pagato, ma l'ho fatto nella ASL, luogo pubblico, posto di lavoro pubblico, che aveva il compito di verificare la sicurezza o meno dei posti di lavoro, uno e due, di cercare di evitare il meno possibile le malattie professionali. Quindi secondo me anche nel tuo quadro il medico del lavoro ci sta dentro, come ci stanno dentro altri che invece scelsero di fare la psichiatria, scelsero di fare l'ostetricia per le donne, eccetera eccetera, scelsero anche di fare pediatria. Per esempio, qualcuno mi deve ancora spiegare perché a un certo punto nella regione Lombardia si è deciso di eliminare la medicina scolastica. La medicina, io ho fatto all'inizio, prima ancora di trovare il posto come medico del lavoro, ho fatto il medico di scolastico per un annetto in zona Corvetto. Ho visto di quelle cose incredibili, no? Ecco. Ma la medicina scolastica non era medicina sociale? Fatta bene lo era e come? E poi non ci sono solo queste branche di specialità che si possono definire medicina sociale. Ce ne sono altre, magari un briciolo più importanti per la gente, però dipende da come le imposti, da come tu, operatore di sanità, le vuoi interpretare. Giovanni Berlinguer l'hai conosciuto? Giovanni Berlinguer l'ho conosciuto molto. Dici qualche cosa di lui. No. ho tutti i suoi libri. Comunque, la prossima volta, se ci sarà, vi racconteremo un po' di storia sull'America Latina, io e Nicoletta. Ecco. Ne facciamo un'altra, solo per la storia lì, dai. Senza il libro, mica per forza. Però dobbiamo scriverla. Quattro appunti, dai. Va bene. Grazie a tutti. Grazie.